Buonasera Chiesa, come stiamo? Bene, bene, di cosa parliamo stasera? Cultura del Regno, meraviglioso. Quanti amano la parola di Dio? Noi amiamo la parola di Dio, noi osserviamo la parola di Dio, noi ci cibiamo della parola di Dio, noi vogliamo vivere in accordo con la parola di Dio, noi dipendiamo da essa. Essa ha cambiato la nostra vita, perché Gesù a un certo punto l'ha detto: sarete veramente miei discepoli se perseverate nelle mie parole. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Noi siamo liberi in virtù della verità. E la verità è la parola di Dio. Noi perseveriamo nell'insegnamento di Gesù, perché l'insegnamento di Gesù porta libertà. Quanti amano essere liberi? Io amo essere liberi, io sono libero. Puoi dirlo alla persona che ti affianco: io sono libero, in Cristo Gesù io sono libero. Nessuno di noi è schiavo. Ormai mi sono abituato a sedermi sullo sgabello, quindi chiedo al runner di portarmi lo sgabello, perché non sono più abituato a stare in piedi. O preferite che sto in piedi? Per votazione, scegliamo per votazione. Quanti vogliono che sto in piedi? Quanti vogliono che io mi sieda? Ah, ok, vedi, benissimo, benissimo. Allora mi siedo, grazie. Questa è la vostra generosità, il vostro amore. Di dire siediti, visto che desideri tanto sederti. Io stasera voglio parlare di un aspetto della cultura del regno che è meraviglioso. È un aspetto che caratterizza, come ogni aspetto che stiamo analizzando, la figura di Gesù Cristo. Gesù Cristo è la personificazione di ogni aspetto della cultura del regno che stiamo vivendo domenica dopo domenica. È apparsa dal nulla, non l'ho visto neanche arrivare. Fantastico. E Gesù è un esempio di quello che noi dovremmo vivere nella cultura nella quale noi ci troviamo. Come abbiamo visto già in precedenza, noi non siamo influenzati e non vogliamo lasciarci influenzare dalla cultura di questo mondo. Noi non vogliamo ritenerci semplicemente dei cittadini italiani, noi vogliamo riconoscere e riscattare il valore aggiunto che la parola di Dio ci mostra del fatto che noi siamo cittadini del regno. Noi siamo cittadini del regno, tu hai un'altra cittadinanza, la tua cittadinanza più importante è quella nei cieli, tu appartieni a Dio, amen? È bello questo, no? E quello che io voglio vedere con voi questa sera è l'aspetto della generosità. La generosità è una caratteristica della cultura del regno, siamo d'accordo? E domenica scorsa abbiamo parlato dell'umiltà. E tutti questi aspetti che stiamo vedendo in realtà sono degli aspetti che troviamo abbondantemente descritti nella parola di Dio, e io li sto insegnando perché credo che sono delle sfide per noi come Chiesa, delle sfide che però ci modellano di più a somiglianza di Cristo e ci permettono effettivamente di vivere il pieno beneficio e la piena benedizione che c'è nella cultura del regno. Perché il motivo per il quale io sto insegnando queste cose è perché c'è benedizione nel vivere la cultura del regno. Siete d'accordo con me? Quando tu vivi un linguaggio di edificazione, tu vivi benedizione. Abbiamo passato una settimana all'insegna del ringraziamento, almeno noi come scuola pastorale in modo particolare, ma so anche a Mottola hanno vissuto una bellissima serata all'insegna del ringraziamento, ringraziarci l'un l'altro, dire parole di edificazione, dire parole che portano vita, dire parole profetiche, tutto questo, ed è stato il secondo messaggio che ho portato, porta benedizione a noi e agli altri. Vivere la cultura del regno porta benedizione a noi e a chi ci circonda. Porta benedizione nella mia vita, nella tua vita e nella vita delle nostre famiglie, nella nostra cerchia di persone che Dio ci dà grazia di influenzare. Quindi il motivo per il quale io insegno su questi aspetti è perché noi abbiamo una responsabilità: riscattare queste caratteristiche, farle nostre e viverle. Quindi conoscerle è la base di tutto. Se non le conosciamo, non sappiamo che abbiamo l'opportunità di viverle. E quando le conosciamo, dobbiamo prenderci l'impegno di viverle e promuoverle. Però, ascoltatemi bene, fratelli e sorelle, Gli aspetti che stiamo vedendo domenica dopo domenica, oramai sono 3 settimane, giusto che stiamo parlando della cultura del regno, e ne parleremo ancora per le prossime 2, la prossima predicherò io e poi ancora verrà fatto un riassunto di tutto quello che ci siamo detti domenica 15 dicembre. Ognuno di questi aspetti non è il mezzo per entrare a far parte del regno di Dio. Ascoltatemi bene, qui mi alzo così mi ascoltate meglio. Ogni aspetto, l'umiltà, un linguaggio di edificazione, la generosità, la grazia che vedremo la prossima settimana, non sono mezzi attraverso i quali noi accediamo al regno di Dio. Non sono mezzi attraverso i quali noi abbiamo l'opportunità di meritarci l'amore di Dio e appartenere al suo popolo, e lui ci riconosce quali suoi sudditi e noi lo riconosciamo quale re perché viviamo queste cose. No, l'accesso al regno di Dio è un accesso che si ottiene per grazia. Amen. Ci piace questo? Non è per meriti, non è per opere, non è per sforzi personali. Accedere al regno di Dio è qualcosa che ci è reso possibile attraverso la croce e il sacrificio di Gesù Cristo. In Efesini, al capitolo 2, noi leggiamo questa cosa, che infatti è per grazia che siete stati salvati. Riconoscete questo verso? Quanto è bello, quanto è liberatorio, no? Quanto ci dà conforto, è per grazia. E che cos'è la grazia? La grazia è un dono immeritato, è un regalo, un regalone, il regalo più grande che chiunque possa ricevere. Quanti amano i regali? Il più grande regalo a tua disposizione è la grazia di Dio. Tu sei salvato per la grazia di Dio. Tu hai accesso a questa cittadinanza non perché te la sei conquistata, non perché hai ottenuto i meriti sufficienti per ottenerla, no, l'hai conquistata per grazia, infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti, perché se fosse per opere noi potremmo dire mi sono guadagnato la salvezza. Tutte le religioni insegnano questo. Tutte le religioni hanno questa cosa in comune. Tutte le religioni ti presentano una lista di cose da fare che nel momento in cui fai bene e ripeti, ti danno il diritto di ottenere benedizioni, grazie da parte di Dio e l'accesso alla vita eterna, in qualsiasi forma essa venga presentata. Addirittura, in alcuni casi, alcune religioni propongono, no, il martirio, il suicidio, lo sterminio, il terrorismo, cose assurde per ottenere qualcosa da Dio. Noi otteniamo la salvezza, fratelli e sorelle, lo so che lo sapete, però è così bello che ce lo ripetiamo. Noi otteniamo la salvezza e l'accesso al regno di Dio in virtù di un solo nome e di una sola persona, Cristo Gesù il Signore, che ha dato la sua vita per noi, quale prezzo di riscatto per pagare i nostri peccati, i nostri debiti nei confronti del Padre, e di riempire ogni nostra mancanza e darci pieno accesso alla sua presenza. Non è meraviglioso? Abbiamo un Dio buono, abbiamo un Dio che è generoso. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Ha dato, lui è generoso, ha dato il suo figlio. E in virtù di quel dono noi oggi abbiamo la grazia di accedere al regno e la grazia di poter vivere nella cultura del regno. Che cos'è la cultura? Sono quell'insieme di valori, quell'insieme di credenze, quell'insieme di comportamenti che caratterizzano un gruppo di persone. Noi viviamo questo e vogliamo promuoverlo, noi vogliamo essere una chiesa che lascia parlare le altre culture. Le altre culture devono poterci osservare e dire: c'è qualcosa di straordinario in voi, c'è qualcosa di assolutamente estraneo, straniero a questo mondo, l'amore che avete, l'accoglienza che avete, le parole che utilizzate, l'umiltà con la quale voi vivete, la generosità che esercitate, la grazia nelle relazioni. Quando le persone vedono questo, non possono darsi altra spiegazione se non il fatto che Dio è veramente in mezzo a noi. Ed è per questo che io anche stasera voglio predicarvi della cultura del regno. Siamo pronti? Ora, il passaggio dal regno delle tenebre al regno di Dio è un passaggio che ci viene descritto nella parola di Dio come un passaggio radicale, straordinario. Letteralmente la salvezza che io ho appena descritto, che si ottiene per grazia, è il passaggio dalle tenebre alla luce. È il passaggio dalla schiavitù alla libertà. È il passaggio che addirittura nella Bibbia viene descritto quale condizione di resurrezione, cioè noi passiamo dalla morte alla vita. È un passaggio talmente radicale che Gesù, per spiegarlo a un uomo religioso dell'epoca, Nicodemo, dice: è una nuova nascita. Voi dovete vivere una nuova nascita. Volete avere accesso al regno di Dio? Dovete vivere una nuova nascita. Che cos'è questa nuova nascita? Nicodemo se l'è domandato, ha detto: come devo fare a rientrare nel grembo di mia madre? Che cosa, che immagine stupida e che immagine scioccante che si è creato nella mente. Ma Gesù voleva che si creasse questa immagine radicale, perché il passaggio dal regno delle tenebre al regno della luce è un cambiamento radicale di vita ed è una conversione che cambia ogni aspetto della nostra vita. Ogni aspetto della nostra quotidianità viene messo sotto sopra, non è vero? E noi abbiamo tante testimonianze, ognuno di noi è testimone di questa conversione ed è un cambiamento meraviglioso. La Bibbia descrive questo cambiamento, no? In Colossesi 1 al versetto 13 dicendo: Dio, non tu, non io, non un prete, non un pastore, non un qualsiasi altro uomo, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Dio ha reso possibile questo mediante il sacrificio di Cristo Gesù. E quando l'apostolo Paolo si è ritrovato a descrivere la sua conversione e la sua chiamata, vedete che parole ha utilizzato. Leggiamo insieme in Atti degli Apostoli al capitolo 26. Quando Gesù gli è apparso nella via di Damasco, questo è quello che l'apostolo Paolo ha vissuto e ha sentito. Leggiamo: io dissi: chi sei, Signore? E il Signore rispose, e già questo è già scioccante, no? Perché Gesù, perché l'apostolo Paolo stava perseguitando tutti coloro che seguivano Gesù, perché lo credeva una blasfemia, una eresia, era un fantoccio Gesù per lui, era una nullità, era una cosa da perseguitare. Ora Gesù gli parla e credo che l'apostolo Paolo ha vissuto uno shock piuttosto importante. Il Signore gli rispose e disse: io sono Gesù che tu perseguiti, ma alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dalle nazioni alle quali io ti mando, per aprire loro gli occhi. Se c'è un'altra descrizione che viene data alla conversione, è il passaggio dalla cecità, non vedere, essere nel buio, essere disorientati, all'acquisire una vista. E quindi Gesù dice: io ti chiamo a questo, per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio. Vedete questo cambiamento, questo passaggio straordinario. E ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. E questo è quello che l'apostolo Paolo vive, un passaggio dalla cecità alla vista. L'apostolo Paolo vive uno delle conversioni più radicali, è un personaggio straordinario. Ci pensate un attimo, quest'uomo era un religioso violento e persecutore, era un terrorista dell'epoca, e che cosa diventa? Diventa un seguace di Cristo, umile, mansueto, al punto tale da insegnare la mansuetudine, da promuovere l'umiltà, da promuovere queste virtù, da essere uno che ammazzava a pietrate le persone, è diventato un uomo che salvava le persone, soccorreva i deboli, aveva cuore per gli afflitti. Questa è la radicalità della testimonianza di conversione dell'Apostolo Paolo, e questo è quello che Gesù continua a fare oggi. Lui stravolge vite, e nessuna vita è troppo messa male per Dio da intervenire e cambiarla. Lui converte anche il terrorista più spietato e più ribelle a lui stesso, lo chiama a sé e gli fa vivere una nuova vita. Noi siamo chiamati a questi. Non guardare mai i tuoi parenti, i tuoi familiari, vicini di casa, colleghi di lavoro, con degli occhi critici, pensando che la salvezza non può raggiungerli, perché non c'è storia che Dio non può trasformare, non c'è vita che Lui non possa afferrare e cambiare radicalmente. Gesù vuole fare questo miracolo ancora oggi e sta chiamando tante persone al suo regno, e noi ci stiamo preparando anche con una sala più grande affinché molte più persone possano essere accolte in questa casa, in questa famiglia, e conoscano la salvezza per grazia in Cristo Gesù. Amen. Noi vogliamo vedere questa Mottola, noi vogliamo vedere una città trasformata a Mottola, una persona per volta. Noi vogliamo vedere vite riscattate, persone che passano dalle tenebre alla luce, dalla cecità alla vista piena. Io stasera voglio parlarvi di un'altra conversione radicale, una delle più grosse conversioni che noi leggiamo nei Vangeli, ed è la conversione di un pubblicano. Ora, se l'Apostolo Paolo era un fariseo, da un estremo, l'estremo della religiosità, del rigore, e questi farisei ce l'avevano a morte con i pubblicani, perché i pubblicani erano considerati alla stregua delle prostitute, dei peccatori indegni e sotto giudizio. E Gesù salva sia gli uni che gli altri. Gesù salva farisei e salva pubblicani. E io voglio parlarvi questa sera di un pubblicano che viene a salvezza e la cui vita è stravolta radicalmente. Chi erano i pubblicani? I pubblicani erano quelle figure che raccoglievano tasse per conto di Roma. In questo periodo storico l'impero romano aveva colonizzato quasi tutto il mondo conosciuto, e Roma è sempre stata molto brava a prendere tasse. Continua ad essere brava oggi. E quello che faceva era adottare un sistema straordinario. Non faceva che i suoi soldati o i suoi ambasciatori o i centurioni o le varie figure dell'esercito romano prendessero questi soldi dagli abitanti, ma in un qualche modo sceglieva o si autoscelgevano, si autoselezionavano, si proponevano delle persone del posto, dei locali, per raccogliere delle tasse, e in cambio potevano trattenersi una parte. I pubblicani erano persone spietate e senza alcun sentimento nobile, perché quello che facevano, in virtù del fatto che i tributi di Roma non fossero molto chiari, loro chiedevano a polso soldi alle persone, impoverendole, trattenendosi una parte per loro stessi e dando quello che era dovuto a Roma. Erano dei camorristi e dei mafiosi sotto la protezione degli stessi romani, come se la camorra fosse sotto la tutela e sotto il beneplacito dello Stato italiano. Forse in alcuni casi lo è, però non entriamo in questo tipo di discorso. Questi avevano la libertà di estorcere persone. I pubblicani avevano la libertà di far vivere l'inferno in terra a tante persone. I pubblicani erano considerati dei traditori, perché erano dei concittadini venduti ai coloni romani. E la storia che stiamo andando a leggere insieme è la storia non solo di un pubblicano, ma di un capo di pubblicani. Quest'uomo aveva fatto carriera nell'essere mafioso, era diventato un boss dei boss, Quest'uomo era un uomo senza alcun sentimento buono nei confronti delle persone, perché era avido di guadagno e di potere ed estorceva e guidava altri pubblicani in modo tale che più tasse potessero essere prese e loro si potessero arricchire. Quest'uomo, lo conosciamo tutti, nei Vangeli ci viene descritto nel capitolo 19 di Luca, e il suo nome è Zaccheo. Vogliamo leggere insieme la sua storia. Gesù è entrato in Gerico, Luca 19, versetto 1. Gesù è entrato in Gerico, l'attraversava. Ed ecco un uomo chiamato Zaccheo, il quale era il capo dei pubblicani ed era ricco. In virtù di questo, egli cercava di vedere chi fosse Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e salì su un sicomoro. Il sicomoro era un albero, è un albero, i cui rami si allargano in maniera orizzontale, quindi puoi salirci sopra, starci in piedi, e questo è dove Zaccheo si trovava, su questo sicomoro, per vedere il passaggio di questo Gesù, che evidentemente sapeva che sarebbe passato e di cui aveva sentito parlare. Allora corse avanti, salì sul sicomoro per vederlo, poiché egli doveva passare di là. E quando Gesù arrivò in quel luogo, alzò gli occhi. È bella questa descrizione, io credo, è un incoraggiamento che sempre faccio. Leggiamo tanta Bibbia, ma lentamente. Leggi la Bibbia lentamente, anche perché poi questa è proprio è sintetizzata la storia di Zaccheo, in pochissime frasi. Si sta narrando qualcosa che è durato molto tempo, ma viene sintetizzato in poche parole. Noi qui troviamo Gesù che alza gli occhi, e io credo che l'evangelista Luca abbia voluto scrivere questo, perché tutti gli altri non lo guardavano Zaccheo. Tutti gli altri avevano da ridire su quest'uomo, tutti gli altri rigettavano quest'uomo, anzi odiavano quest'uomo, tutti gli altri sapevano cosa quest'uomo faceva. Era un uomo che non riuscivano magari ad affrontare di persona, perché era un uomo potente, avrebbe potuto infliggere maggiore dolore nella vita delle persone che lo avrebbero accusato, lo avrebbero confrontato, ma Gesù alza i suoi occhi e guarda Zaccheo. Zaccheo si vede considerato da Gesù, e non solo, quello che noi leggiamo ha dell'incredibile, perché Gesù lo vide e gli disse: Zaccheo, Zaccheo. Cosa c'è di incredibile in questo? Il fatto che, fino a prova contraria, nessuno ha presentato Zaccheo a Gesù. E Gesù non aveva ragione di conoscere il suo nome, ma evidentemente Gesù conosceva Zaccheo. Conosceva quest'uomo come conosce ciascuno di noi. Lui ci chiama per nome, ci conosce individualmente, sa cosa viviamo. E nonostante sappia quello che noi viviamo e la nostra condizione, lui alza il suo sguardo, quanto amore, e ci chiama per nome. Zaccheo a questo punto non aveva ragione di mantenere delle maschere. Fino a quel punto, forse nella sua mente, ha pensato: se lo incrocio, mi presenterò e non dirò nulla di chi sono. Un po' come la donna samaritana, che non ha detto nulla della sua condizione, dei suoi passati molto, molto difficili nei matrimoni. Zaccheo a questo punto si sente spogliato, amato, riconosciuto, anche perché Gesù aggiunge queste parole. Dice: scendi giù subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Lo guarda, lo chiama per nome e si autoinvita a casa sua. Gesù stasera ti guarda, ti chiama per nome e vuole entrare in casa tua. Vuole entrare nella tua vita completamente. La casa è l'immagine della quotidianità. La casa è l'immagine di tutto quello che noi passiamo. La casa è l'immagine di tutte le cose, no, sporche che ci sono e che a nessuno possiamo nascondere. Cioè, le nascondiamo in casa, ma Gesù vuole entrare in casa. Lui vuole entrare nelle nostre vite. Lui è interessato a noi, come era interessato a Zaccheo. Versetto 6. Egli scese in fretta e lo ricevette con gioia. Naturalmente Zaccheo a questo punto era contento, Gesù vuole venire a casa mia. Lo ricevette con gioia. Il versetto 7 dice, vedendo ciò, tutti mormorarono. Avete capito perché stanno mormorando? Era il capo dei pubblicani, un traditore, un mafioso, un farabutto, una persona avida, una persona arrogante e superba. Tutti cominciarono a mormorare che Gesù si autoinvita tra le tante case di Gerico, tra le tante famiglie, persone nelle quali poteva essere accolto e che l'avrebbero accolto volentieri. Gesù si lascia accogliere da questo peccatore, entra in casa sua, e il soggiorno di Gesù non è breve, non è per un caffè, e le parole lasciano intendere che Gesù abbia pernottato in questa casa. E quello che noi leggiamo nel versetto 8 è un passaggio immediato che non ci descrive tutto quello che è avvenuto in quella casa, le conversazioni che si sono fatte, come si sono conosciuti, come si sono presentati, di cosa ha parlato Gesù. Ma nel versetto 8 noi vediamo che qualcosa cambia radicalmente nella vita di Zaccheo, perché l'Evangelo di Luca dice che Zaccheo si alzò e disse... E il segno di alzarsi è un segno di prendere una posizione, prendere una scelta. Questa è la conversione è quell'atto dove un uomo, avendo incontrato il Redentore, il Salvatore, si alza in piedi per fare una scelta nella propria vita e vivere un cambiamento radicale. Zaccheo si alzò e disse al Signore: Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho defraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò quattro volte tanto. E Gesù gli disse, oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è figlio di Abramo. Perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Gesù viene a cercare, a salvare ciò che è perduto. Lui insegue, ha a cuore i peccatori, le persone avide, i superbi, lui ha a cuore noi. Lui ci ama in una maniera indescrivibile, incondizionata. Ma qual è l'evidenza della conversione? Perché Gesù dice oggi la salvezza è entrata in questa casa? Perché Gesù con tanta convinzione può affermare quest'uomo è un figlio di Abramo, ovvero lui ha la fede di Abramo, la fede che salvifica, la fede che è il mezzo per la salvezza che si ottiene per grazia, come abbiamo letto in Efesini 2. Cos'è che mostra a Gesù l'evidenza chiara che quest'uomo ha vissuto la conversione? La sua generosità. La generosità di Zaccheo. Ora l'abbiamo letto velocemente, come spesso leggiamo velocemente la Bibbia, no? Ma pensate un attimo. Ve lo leggo lentamente, quello che dice Zaccheo. Io do la metà dei miei beni. Io do la metà dei miei beni ai poveri. Prova a immaginare un attimo la metà dei tuoi beni. Metà di casa tua, la tua macchina a metà, metà del tuo, dei tuoi risparmi, dei tuoi depositi bancari. Zaccheo era un uomo ricco e noi sappiamo quanto ancora è più difficile per un uomo ricco che ha tante proprietà, che ha tanti avere, che ha conti bancari più grossi della media. Quest'uomo era uno, possibilmente uno degli uomini più ricchi di Gerico, e lui decide, dice, la metà dei miei beni io li do ai poveri, e non si ferma qua, perché aggiunge, se io ho defraudato qualcuno, e questo se io è una cattiva traduzione, perché è inteso più che altro per coloro che ho defraudato, nei confronti di coloro che ho defraudato, tutti coloro ai quali io ho rubato qualcosa, glielo darò indietro e gli darò quattro volte tanto. La legge mosaica prevedeva che in caso di furto tu ridessi la parte rubata, e a quella parte aggiungessi un quinto. Questo è quello che la legge mosaica prevedeva. Quindi, in altri termini, per renderlo concreto e comprendibile per ognuno di noi, se tu rubavi 100 euro, dovevi ridare alla persona che avevi rubato questi 100 euro, 100 euro più un quinto, e un quinto di 100 euro sono 20 euro, quindi 100 euro più 20 euro dovevi ridare per la legge mosaica 120 euro indietro. Zaccheo che sta dicendo? Sta dicendo: a chi io ho rubato 100 euro, io ne darò indietro 400. Ha dato la metà dei suoi averi ai poveri. Della restante parte, lui si prende l'impegno di ridare 4 volte tanto a ogni persona che ha derubato. Questa è conversione. Questo è cambiamento. Questo è il passaggio dal regno delle tenebre al regno della luce. Questo è il passaggio da quella che è la schiavitù del peccato alla libertà della salvezza in Cristo. Questo è il cambiamento dalla cecità alla vista piena. Zaccheo è totalmente un'altra persona. Dall'aver speso una vita ricercando il proprio benessere, accumulando beni, anche a svantaggio di tante persone che hanno sofferto, la sua vita cambia perché ora vive una vita che è proiettata verso gli altri, una vita che è proiettata verso i poveri. Quelle stesse persone che ha derubato adesso le vuole arricchire, benedire. Questa è generosità. E tu sai che vivi il regno di Dio quando vivi questo cambiamento. E io so che sto guardando tante persone che vivono questo cambiamento nella loro vita, che non vivono più per accumulare, che non vivono più per i propri bisogni, ma vivono per il bene degli altri e per l'avanzamento del regno di Dio. Noi siamo benedetti perché siamo una chiesa generosa. Io sono così grato a Dio della chiesa che siamo. Come dicevo stamattina, io amo vedere il miracolo di Dio che si ripete mese dopo mese, perché noi paghiamo un affitto importante, abbiamo 3 stipendi che copriamo in una maniera legale, pagando tutte le tasse come è giusto fare, e poi benediciamo 3 operai che sono in missione a tempo pieno, e tante spese, tante bollette, tutto questo è permesso solo e unicamente da un'entrata, l'entrata delle decime offerte, la generosità dei credenti. E quando noi ci confrontiamo col mondo che è lì fuori e ci chiede: ma voi come fate? Com'è che avete tutto questo? La possibilità da parte mia di dire come pastore: tutto questo viene dalla generosità di persone che mese dopo mese mettono da parte una decima parte, danno con il loro cuore e offrono a Dio perché credono in quello che stanno vivendo, non ha prezzo ed è bellissimo. Io voglio ringraziarvi per la vostra generosità. Io voglio elogiare questa generosità. Io voglio promuovere questa cultura, perché è così che avanza il regno di Dio. E poi Dio provvede, e poi Dio fa miracoli. E io voglio incoraggiarti stasera in 2 direzioni. Vivendo il regno di Dio, tu hai un re, e questo re provvede e provvederà sempre nella tua vita. E io questa sera voglio incoraggiarti a credere che ogni ricchezza è nelle sue mani e lui provvede ai suoi figli, lui provvede ai suoi sudditi, ai suoi servi, lui provvede a coloro che sono umili di cuore e appartengono a lui. Lui provvede. Posso incoraggiarti di coinvolgerlo? Coinvolgilo. Non guardare alla società che ti circonda, non guardare ai problemi economici che ci sono, guarda al tuo Dio, lui provvede. Io potrei passare il microfono in questo stesso istante a persone per le quali abbiamo pregato e Dio ha provveduto lavoro. Dio ha provveduto lavoro nel mezzo della crisi e nel mezzo delle impossibilità. Dio ha aperto porte impossibili. Se tu ti trovi questa sera in una condizione di difficoltà economica, riconosci il tuo re, coinvolgilo nella tua vita, perché lui provvede e provvederà sempre. Coinvolgilo nell'avere, perché Dio vuole darti, perché lui è generoso. Voglio incoraggiarti anche a coinvolgerlo nel tuo dare. come Zaccheo ha fatto. Non coinvolgere Dio solo per i bisogni che hai. Prima ne parlavo con Rino all'ingresso, no? A volte viviamo, no, questo rapporto con Dio che è sempre basato su quello che vogliamo, quello che desideriamo, i nostri bisogni. E sapete una cosa? Dio ama quando noi andiamo a Lui a chiedere tutto quello di cui abbiamo bisogno, perché è Lui che ci invita a farlo. Lui dice: gettate su di me i vostri pesi, perché io ho cura di voi. È Lui che dice: o qualsiasi richiesta, presentatela a me in preghiera, io provvederò. Dio ama provvedere a noi. Però c'è una maturità che noi tutti possiamo vivere, che sta nel fatto di coinvolgere Dio anche nel nostro dare, non solo nel nostro ricevere. E chiedere a Dio: Dio, che cosa posso dare? Che cosa vuoi tu che io dia? Perché vedete, non è una questione di cifre, non è una questione di matematica, non è una questione di conti. Qualche giorno prima Gesù ha incontrato un giovane ricco e a lui ha chiesto di vendere tutto e dare tutti i suoi beni ai poveri. E lui non l'ha fatto e poi non l'ha seguito. Ora, perché di Zaccheo si compiace del fatto che lui ha dato solo metà ai suoi poveri? Beh, perché non è una questione di quantità, è una questione di cuore. È una questione che tu ti metti in gioco davanti a Dio e dici: tutto quello che è mio è tuo. E qualsiasi cosa tu vuoi che io dia, io la voglio dare, anche quando si tratta di fare una donazione di sacrificio e che mi costa, perché so che tu non mi lascerai mai nel bisogno. Noi vogliamo vivere una cultura del regno che è basata non sul consumismo e materialismo, e in questo tempo, in questo mese si vive così tanto questo. Vogliamo vivere una vita che è sottomessa alla guida dello Spirito Santo, anche quando si tratta di comprare una giacca, anche quando si tratta di comprare delle scarpe. Interroga Dio come puoi investire meglio i tuoi soldi, perché a volte spendiamo cifre esorbitanti solo perché c'è una scritta diversa, solo perché c'è un simbolo diverso su quel capo che andiamo a comprare. E noi viviamo in una società di apparenza, perché dobbiamo mostrarci. Non permettiamo che nelle nostre case si viva questo. Educhiamo i nostri figli a non rincorrere queste cose. Troppi adolescenti rincorrono il capo firmato per confrontarsi, per non sentirsi da meno. È compito nostro, fratelli e sorelle, educarli a comprendere che un pantalone rimane un pantalone. Anche quando costa 10 euro, anche quando ne costa 10, 5, anche quando riesce a comprarlo per 2 euro. Quanti hanno comprato mai un pantalone per 2 euro e sono soddisfatti di questo con me? È meraviglioso. Viviamo in una società che è tutta apparenza. È generosità scegliere di vivere anche uno stile di vita diverso. Zaccheo, nella sua scelta, ha detto: io sono disposto a un tenore di vita diverso. Io sono disposto a rinunciare a tutte le mie ricchezze, ho trovato la ricchezza più grande della mia vita ora. Non credo che sia tornato a fare il suo lavoro. Come poteva tornare a fare il suo lavoro? Avrà cercato lavoro, avrà avuto dei vestiti più umili, ha venduto proprietà, ma ha guadagnato il tesoro più grande. Si è fatto un tesoro nel regno dei cieli e un giorno noi tutti lo incontreremo. E sentiremo dalle sue bocche, dalla sua bocca, le parole della sua conversione. E saremo ancora più straordinariamente sconvolti da tutto quello che Luca non ha potuto scrivere. E di questa storia, di questo incontro con Gesù. Scegli di vivere una vita in sobrietà, in umiltà, a favore del regno di Dio, per dare. Quando dico dare, non sto parlando solo delle decime e delle offerte da dare in chiesa. Ed è capitato che c'era la notizia del nuovo locale, ok? Non era pensato in virtù di questa notizia. Io parlo di generosità a 360 gradi. Io mi impegno ogni mese a dare la mia decima, le mie offerte e a provvedere a dei poveri. A un povero, un ragazzo di 18 anni. Un bambino che ho adottato attraverso Compassion. E mi riempie il cuore sapere che io posso benedire la vita di una persona povera. Noi tutti possiamo contribuire ed essere generosi è vivere per altri. Io ti invito ad essere generoso, a fare un regalo a un fratello, a una sorella, a tua moglie, a tuo marito, un regalo che possa essere significativo, a fare regali fra di noi. È bellissima la generosità spontanea, che non è determinata dalle festività o dal compleanno di turno, ma è spinta dal cuore, perché lo Spirito Santo ci chiede a farlo. Sii generoso non solo negli averi e nelle finanze, sii generoso col tuo tempo. Sapete chi è il personaggio più generoso di questa storia che abbiamo appena letto? È sempre e comunque Gesù. Gesù è il più generoso in questa storia, sempre, vince sempre lui. Non è Zaccheo più generoso di Gesù, è Gesù che è generoso e si è preso del tempo per stare con Zaccheo, per entrare in casa sua. È Gesù che è andato oltre il mormorio che sentiva e la reputazione che era messa in gioco. A questo punto lo osannavano, lo cercavano, lo seguivano. E ora va a casa di un peccatore, che cosa penseranno? No, Gesù è stato generoso offrendo il suo tempo all'ultimo degli ultimi in quella città. Questa è generosità. Quando tu offri il tuo tempo per curare qualcuno, per presentare la verità della parola di Dio a chi ancora non la conosce, questa è generosità. Io più vi guardo e più potrei raccontare storie di generosità, perché in mezzo a noi ci sono persone che hanno scelto di non spostarsi in altri posti, in altre nazioni, in luoghi dove c'è maggiore benessere, perché amano la Chiesa e hanno una chiamata per questo luogo e hanno scelto di rimanere qui per servire il Signore. Ci sono persone in mezzo a noi che hanno scelto di vivere un lavoro che permettesse loro di avere più ore da dedicare al servizio a Dio. E quindi lavorano part time, hanno uno stipendio più basso. Perché? Perché non vivono per una carriera e non vivono per inseguire avere terreni, ma vogliono servire il Signore con il loro tempo, con i loro talenti e con le proprie capacità. Anche questa è generosità. Sono tante testimonianze in mezzo a noi, noi le conosciamo. Posso incoraggiarci in questa generosità a crescere e andare di gloria in gloria. Nel tuo prossimo acquisto coinvolgi lo Spirito Santo. Quella macchina non deve necessariamente avere quelle ruote così larghe, così belle. Non deve avere per forza tutti gli optional e non deve essere per forza nuova, la puoi prendere usata. Quella giacca che troverai con un falso sconto del 70%, perché non hanno fatto altro che alzare il prezzo e poi mettere il 70% per farti pagare il pieno prezzo iniziale. Rinuncia, chiediti a chi posso dare questi 70 euro, questi 100 euro. Dio non lascia nessuno povero, arricchisce il generoso e allarga la sua vita. Vuoi vivere una vita larga? Sii generoso nel tuo tempo, nei tuoi talenti, nel tuo vedere l'altro, nel tuo dare le offerte, nel tuo promuovere la missione, nel tuo dare la decima ogni mese. Sii generoso, perché c'è benedizione nella cultura della generosità. Amen. Sapete che voi siete il risultato della generosità di altri. Gesù ha cominciato e ha fatto un effetto a catena che ha avuto una ripercussione nei secoli. E tu sei il risultato della generosità di qualcuno. La sedia sulla quale sei seduto è il risultato di un dono di qualcuno. Il microfono che io ho in mano è il risultato della generosità di qualcuno. Il tuo venire a conoscenza della verità di Gesù è il risultato di missionari che hanno lasciato la loro vita, si sono trasferiti qui in Italia. È il risultato della generosità di olandesi che dal loro paese ricco sono venuti qui in Basilicata, in Puglia, negli anni 70 a vivere una vita più umile, ma permettendo a tante persone di conoscere la verità della Bibbia. Il regno di Dio avanza attraverso la generosità delle persone, attraverso la generosità dei figli di Dio. Amen. Vogliamo alzarci in piedi e vogliamo pregare. Scusate se ho preso più tempo del dovuto, però è una tematica che richiede attenzione ed è bello dare questa attenzione. Voglio chiederti di chiudere i tuoi occhi e Se hai libertà di farlo con me, di alzare le tue mani in segno di arresa, è il gesto più bello che possiamo adottare, la posizione più bella che possiamo adottare per dire io mi arrendo alla presenza di Dio. Vogliamo riconoscere in questo momento che tutto quello che abbiamo lo abbiamo non per i nostri meriti, ma per la grazia di Dio nella nostra vita. Sì, noi lavoriamo, ci affatichiamo settimana dopo settimana per gli stipendi che otteniamo, ma se non fosse per la salute che Dio ci dà e le porte che Lui apre, noi non avremmo nulla. E quindi Gesù, siamo grati, la tua chiesa è grata in questo luogo e ti ringrazia perché tu sei il generoso, il più generoso, l'esempio di generosità. Padre, grazie per la tua generosità nei confronti di ciascuno di noi, grazie per quanto tu ci dai e continui ad abbondare, grazie per come tu provvedi nelle stagioni più difficili, grazie perché tu provvedi, grazie per i lavori che ci hai dato, grazie per le porte che hai aperto e per quelle che aprirai. Io prego che questa sera, Gesù, tu possa cambiare cuori, e dovunque noi assomigliamo al vecchio Zaccheo, che noi possiamo diventare il nuovo Zaccheo ed essere uomini che lasciano un segno nella storia per la loro generosità, lasciano un segno visibile in questa società di materialismo, di apparenza, di consumismo, e si manifestano quali figli di Dio perché amano essere generosi. Alleluia, Padre, io ti ringrazio per tutto quello che noi viviamo come Chiesa, e io ti prego che tu ci possa portare di gloria in gloria. Alleluia.